Salva Danaio di Deborah Rosciani. A tutti buona giornata da Deborah Rosciani, ben ritrovati a Salva Danaio, anche oggi in diretta da Bari, dalla Fiera del Levante. Parliamo di mercati, ieri ne abbiamo parlato diffusamente, le borse europee hanno festeggiato con una chiusura positiva la giornata, soprattutto quando è arrivato il tanto atteso responso della Corte Costituzionale tedesca in merito alla legittimità del fondo Salva Stati ESM. Si vede così rimosso il principale ostacolo alla creazione del fondo, che vale in totale 500 miliardi di euro ed è progettato proprio per soccorrere gli Stati dell'Unione Europea qualora si trovassero in difficoltà, come già capitato a Portogallo, ad Irlanda, Grecia e Spagna, con l'altro fondo, quello provvisorio, l'EFSF, che cesserà di esistere il 30 giugno del prossimo anno. Quella che è arrivata dalla Corte Costituzionale tedesca è senza dubbio una buona notizia, che però non scioglie del tutto gli altri dubbi e le faccende in sospeso dell'Unione. In primis il nodo dello scudo antispread, ancora da sciogliere totalmente. Sembrerebbero però aumentare le schiarite nel panorama economico del vecchio continente, anche se forse non è il caso di dirlo troppo forte. I mercati sembrano avvicinarsi all'inizio dell'autunno in modo un po' più sereno rispetto a quanto ci si potesse aspettare, rispetto anche a quello che abbiamo visto negli ultimi mesi. Ieri Milano ha chiuso con un rialzo dell'1,19%, oggi ritorna invece a scendere. Si è registrato un buon risultato ieri, ricordiamo, nell'asta dei titoli di Stato a 3 mesi e a 1 anno, con i tassi dei rendimenti in netta discesa, stamattina stesso risultato per altre scadenze. Si può davvero stare tranquilli? In questo clima di calma forse apparente si è brutalmente inserito anche ieri l'attentato in Libia all'ambasciata USA, e quindi qualcuno ha già rispolverato quello che è successo 2 anni fa con la primavera araba, che aveva disturbato non pochi i mercati finanziari. Insomma, i temi da commentare sono molti. Allora noi oggi ne riparleremo diffusamente. Si può stare tranquilli? Avremo un autunno più sereno? Salva Danaio stamattina, come vi ribadisco, sempre in diretta dalla Fiera del Levante di Bari, torna a raccontare e ad analizzare le attese per l'autunno dei mercati alla luce delle ultime notizie. Con noi quest'oggi Andrea Ragaini, amministratore delegato di Banca Cesare Ponti, responsabile del private banking di Banca Carige. Ragaini, buongiorno e bentornato a Salva Danaio, ci sente? Buongiorno Deborah, buongiorno a tutti. Ci sente, così come spero che ci senta bene, Marco Valli, capo economista dell'area euro di Unicredit. Dottor Valli, buongiorno e benvenuto a Salva Danaio, perché lo ospitiamo per la prima volta. Buongiorno. Buongiorno, grazie. Allora, io come sempre do l'opportunità ai nostri ascoltatori di interagire con noi. Potete chiamarci all'800240024 per raccontarci cosa vi aspettate da questo autunno sui mercati. Vi sentite più tranquilli di un anno fa nell'investire i vostri risparmi? So bene che quando facciamo trasmissioni di questo tipo molti ascoltatori obiettano: abbiamo poco denaro, stiamo risparmiando poco, per cui c'è ben poco da commentare su quello che succede sui mercati. Allora io aggiungo a chi potrebbe appunto esprimere opinioni di questo tipo che se si ha poco risparmio lo si deve conservare al meglio, per cui forse proprio per questa ragione è bene conoscere i temi di mercato, quello che ci capita intorno, e se volete anche commentarlo con noi. Oltre al numero verde potete utilizzare anche l'SMS 349-238-6666, potete scrivere anche sul nostro profilo su Facebook salvadanaio-radio24, potete inviarci delle mail all'indirizzo salvadanaio@radio24.it, quindi avete tanti modi per appunto sentirvi coinvolti nella nostra trasmissione, e so che li usate sempre tutti. Prima di iniziare la chiacchierata sugli scenari di mercato generale, andiamo un po' a vedere come si sta muovendo invece la seduta odierna di borsa. Meno 0,7% in questo momento a Milano, che per la verità è arrivata a perdere anche un po' di più, oltre un punto, quindi bruciando il rialzo che alla fine aveva realizzato ieri. Meno 0,6% Parigi, meno 0,4% Francoforte, Madrid perde un punto, abbiamo anche il listino di Lisbona, meno 0,3%, ieri il mercato americano ha chiuso positivamente ma senza slancio. Probabilmente il mercato americano ha guardato a quello che è successo in Libia, un evento peraltro travolgente che investe in pieno la campagna elettorale americana. Euro su dollaro 1,2805, lo spread che cosa fa? Lo spread stamattina si muove leggermente al rialzo rispetto alla chiusura di ieri, siamo a 348 punti base, ieri la chiusura è stata 341. Abbiamo avuto stamattina, come vi anticipavo, altre due aste che hanno segnato rendimenti di nuovo in ribasso. Il Tesoro italiano ha collocato 4 miliardi di euro di BTP triennali al 2,75% lordo, e ha collocato anche BTP con scadenza 15 anni che sono tornati in asta per la prima volta da luglio 2011. In questo caso il rendimento che il mercato ha chiesto è stato del 5,32%, per cui anche in questo caso rendimenti in ribasso, così come si è verificato ieri con rendimenti in fortissima discesa per i bot a 3 mesi e a 1 anno appunto collocati nell'asta di ieri. E anche questo è un tema naturalmente interessante che oggi affronteremo per capire quanto sospiro di sollievo può tirare il tesoro italiano, che quindi paga sul suo debito meno interessi rispetto a qualche mese fa. E un altro appuntamento molto importante per questa giornata, e anche di questo parleremo diffusamente con i nostri ospiti, attendiamo notizie dagli Stati Uniti, è riunita la Banca Centrale Americana, oggi aspettiamo un annuncio su nuove politiche di stimolo monetario per sostenere l'economia, perché là non è che vadano molto bene le cose dal punto di vista occupazionale, l'abbiamo visto con il dato diffuso venerdì scorso, e quindi insomma un po' tutto il pianeta economico ha molte notizie da commentare. Lo faremo nel corso della trasmissione, prima però la nostra scheda che introduce un po' i temi più importanti del momento. L'autunno si avvicina, le temperature si abbassano, ma l'accoglienza dei mercati finanziari sembra essere meno fredda di quanto ci si potesse aspettare. Un eccessivo ottimismo è senza dubbio prematuro, ma anche questa settimana sembra portare buone notizie, dopo che giovedì scorso erano state accolte positivamente le parole di Mario Draghi, che aveva annunciato il via al nuovo piano antispread da parte del consiglio direttivo della BCE, con la possibilità di un acquisto illimitato di titoli di Stato finalizzato ad aiutare i paesi in difficoltà. Già durante il mese di agosto, Piazza Affari ha registrato dei balzi considerevoli, con il FTSE MIB che ha sostanzialmente azzerato le perdite da inizio anno, recuperando in 4 settimane 70 miliardi di capitalizzazione. Uno sprint non da poco, se si considera che il 25 luglio era arrivato a toccare il minimo assoluto dall'inizio del 2012. Dal canto suo, il temuto spread era arrivato a quota 411, il 21 agosto, per poi risalire a 452 con la fine del mese, tornando a creare qualche preoccupazione per l'arrivo di settembre. Certo, un livello ben lontano dai 546 punti, il massimo assoluto dell'anno, raggiunti sempre nella giornata del 25 luglio, ma anche lontano dal minimo di 275 punti, toccato il 16 marzo. Ieri il differenziale tra i nostri titoli di Stato decennali e quelli tedeschi ha invece chiuso a quota 341 punti, con una tendenza di nuovo incoraggiante, anche sulla scia dei buoni risultati dell'asta dei titoli di Stato, bot a 3 mesi e a 1 anno, che ha visto scendere nettamente i tassi di interesse. Alla base delle buone notizie di ieri, anche Piazza Affari ha chiuso bene con un più 1,19%, c'è naturalmente l'ok della Corte Costituzionale tedesca al Fondo di Salvataggio Europeo. I giudici tedeschi hanno detto sì, in sostanza, alla creazione del fondo ESM, pensato per aiutare, qualora fosse necessario, i paesi dell'Unione che si trovassero in difficoltà. Un ulteriore passo che incoraggia i mercati europei e fa sperare in un inverno meno freddo di quello dell'anno scorso. 800 24 0024, il numero verde per le domande in diretta degli ascoltatori, oppure scriveteci al 349 238 6666. Qualche ascoltatore ci segnala la modalità con cui sta risparmiando in questo momento. Sono 2 anni che risparmio, ci racconta un ascoltatore, tramite un piccolo PAC, un piano di accumulo. Spero che tra 5 anni, dopo la ripresa prevista, questo mio investimento possa dare i suoi frutti. Un altro ascoltatore invece ci scrive a salvadanaio@radio24 chiedendoci se è il caso di investire su un conto di deposito. Allora lo dico a Simone, che ci ha scritto sui temi della risparmio gestito completamente con strumenti di liquidità, magari ci torneremo nei prossimi giorni. Oggi vorremmo focalizzarci sulle questioni legate agli scenari di mercato, per cui non accanteniamo la sua domanda, perché invece è un tema molto interessante che riguarda moltissimi risparmiatori in Italia, per cui ci dia solo qualche giorno di pazienza. Domani peraltro affronteremo il tema del risparmio postale. Marco Valli, economista per quello che riguarda l'area euro di Unicredit. Allora, è una buona notizia al 100% la decisione della Corte Costituzionale tedesca di concedere la sua benedizione al nuovo fondo salva stati europeo, oppure questa condizione che ha dato, non oltre 190 miliardi, e se si vuole andare oltre il Parlamento tedesco che deve dare il suo benestare, comunque rischia di essere considerato un po' un limite, un altro paletto che a lungo termine tornerà a disturbare il mercato. Qual è la sua sensazione? No, direi che la decisione tutto sommato è stata in linea con le attese, e anche questo limite dei 190 miliardi va visto nel contesto in cui questa è proprio la quota che attualmente la Germania paga al fondo ISM. Mi sembra comunque tutto sommato condivisibile il fatto che se si volesse ampliare ulteriormente le risorse di questo fondo venga interpellato il Parlamento tedesco. La Corte sostanzialmente ha detto questo, quindi lo trovo uno scenario abbastanza ragionevole e non tale da far pensare che questo eventualmente potrebbe creare delle serie turbolenze di mercato qualora ci fosse bisogno di allargare questo fondo. Teniamo però presente una cosa molto importante: dopo l'annuncio di Draghi, la probabilità che sia richiesto nei prossimi mesi un allargamento a oltre 500 miliardi di questo fondo si è ridotta in maniera molto molto significativa. Direi che questa è la cosa più importante, quindi non mi focalizzerei tanto su questi dettagli che alla fine, visto lo scudo della BCE, rischiano di diventare tutto sommato abbastanza poco rilevanti. La prima riunione di questo fondo, se non ricordo male, sarà l'8 ottobre. Beh, diciamo sì, sì, questo è corretto, e questo fondo dovrà sostanzialmente, qualora pervenissero richieste di aiuto dai paesi in difficoltà, dovrà dare il via libera. Forse è il caso di ricordare come funziona il processo decisionale di questo fondo. La ringrazio, perché così almeno lo spieghiamo ai nostri ascoltatori. Le questioni, tra virgolette, più normali vengono approvate all'unanimità. Votano un esponente per ogni paese, e questo esponente è di solito il ministro delle finanze, quindi unanimità per le decisioni, diciamo così, più di routine, più di normali. Per le decisioni di carattere più eccezionale, in cui è necessario un meccanismo di decisionale più veloce, più snello, basta una maggioranza qualificata dell'85% dei voti, quindi potenzialmente i paesi che sarebbero in grado di bloccare da soli un provvedimento ISM preso sotto procedura di urgenza sono solo la Germania, la Francia, l'Italia e la Spagna. Non ci sono paesi piccoli come ad esempio la Finlandia o l'Olanda che, presi singolarmente, possono bloccare una procedura di urgenza a livello di ISM. Allora, quindi, insomma, la decisione è arrivata dalla Germania, ci ha rassicurato. Secondo lei invece i risultati elettorali olandesi pure hanno contribuito in qualche maniera a far tornare un clima un po' più disteso sui mercati rispetto all'estate ancora piuttosto turbolenta che abbiamo visto? Niente a che vedere con quella dell'anno scorso, ma insomma anche quest'anno le sorprese non ce le siamo fatte mancare. Era atteso anche quel risultato elettorale con questa vittoria dei partiti a maggior vocazione europeista, dottor Valli? Diciamo che fino a qualche mese fa c'era una forte timore che il Parlamento potesse essere spaccato con una forte presenza dei partiti populisti e anti-europeisti. I sondaggi hanno mostrato una prevalenza sempre maggiore dei partiti conservatori, dei liberali, il partito del Labour, solo negli ultimi giorni, nelle ultime settimane, quindi c'è stata un'accelerazione, e tutto sommato il giorno prima delle elezioni già si poteva pensare che lo scenario sarebbe stato comunque più favorevole di quanto si potesse temere, ripeto, magari prima della pausa estiva, proprio nel momento in cui effettivamente si vedevano i partiti euroscettici che continuavano a guadagnare terreno. Per quanto riguarda il risultato, direi sicuramente positivo, è un ulteriore tassello che va a inserirsi nella posizione giusta, e l'Eurozona piano piano sta trovando una sua forma più compatta, più coesa, e meccanismi decisionali più efficienti, e soprattutto con l'aiuto della BCE adesso c'è effettivamente la percezione che esista il cosiddetto firewall, quindi un muro contro la speculazione che sia effettivamente tale, capace di scoraggiare gli attacchi speculativi non basati sui fondamentali, perché non dimentichiamo che al momento abbiamo visto un forte ritracciamento dei rendimenti in Italia, Spagna e nel resto della periferia. Rimane comunque ovviamente uno spread ancora consistente. Quello che la BCE vuole raggiungere che è un livello di questo spread che sia il più possibile in linea con i fondamentali del paese, mentre invece questo spread non deve riflettere il potenziale rischio di rottura della zona euro. Dottor Valli, allora a questo punto le devo chiedere qual è quello che secondo la sua visione è uno spread in linea con i fondamentali del nostro paese. Banca d'Italia sosteneva nei giorni passati che dovrebbe scendere ancora, anche se non mi ricordo a quale livello si trovava quando appunto Via Nazionale l'ha detto, di almeno altri 200 punti. Sotto i 200 punti base dovremmo stare secondo lei? Allora, diciamo che gli studi Banca d'Italia arrivano, tendono a convergere verso una cifra intorno ai 200 punti base e che quindi è sostanzialmente più basso di dove siamo adesso, siamo intorno ai 3,40-3,50. Ciò detto, queste sono stime che vanno prese con molta cautela, perché sono basate su modelli, i modelli sono stimati sui dati del passato e sappiamo che con questa crisi è cambiato un po' tutto. La mia impressione è che forse 200 punti base in questo contesto, soprattutto visto l'incertezza politica che arriva adesso in Italia, sia una stima oggettivamente un po' troppo ottimistica. Sì. Quindi probabilmente ci potremmo aspettare qualcosa, una via di mezzo tra il livello attuale e questo livello di magari quei 2,80 su cui gravitavamo intorno a marzo, quando poi invece ha ripreso a lievitare. Qualcosa di simile potrebbe essere ragionevole, tenendo però presente che in Italia più passa il tempo, più ci avviciniamo alle elezioni, più effettivamente gli investitori esteri cominceranno a guardarci con molta attenzione, perché questo è oggettivamente il rischio principale per quanto riguarda lo scenario italiano sicuramente, ma anche direi uno scenario europeo, perché dopo le dichiarazioni della BCE è chiaro che quello che rimane in questo momento prezzato sul mercato è in grossa parte rischio politico, rischio che i governi in qualche modo non facciano le riforme che devono fare per avere accesso allo scudo della BCE, e queste le nostre elezioni direi che verranno vagliate con estrema attenzione dagli investitori internazionali, perché entrano in un contesto decisamente delicato. Investitori internazionali che peraltro nelle ultime settimane sembrano invece essere ritornati sui nostri titoli di Stato. I giornali hanno riportato diffusamente di JP Morgan, ma anche di PIMCO, che è il più grande gestore obbligazionario al mondo, che dopo averci abbandonato pesantemente l'anno scorso sembra essere invece pian piano ritornato a guardarci con interesse. Poi commenteremo anche magari tutto questo. Prima di andare alla prima pausa però con Andrea Ragaini vorrei fare un commento sull'altro fatto che ha turbato sicuramente la politica internazionale, la campagna elettorale americana, al momento non ancora il mercato, ma non è detto che se ci dovesse essere una recrudescenza di questi eventi già molto gravi in Libia, forse già le materie prime potrebbero risentire. L'attentato all'ambasciata americana a Bengasi, dottor Ragaini, al momento nessun impatto sui mercati, però 2 anni fa, quando esplosa la primavera araba in queste zone tra l'Egitto, la Tunisia ed altre, nessuno se l'aspettava effettivamente quegli eventi, e l'impatto sul mercato c'è stato forse con un po' più di lentezza, ma c'è stato ed è stato anche piuttosto prorompente. Insomma, lei questo evento di ieri come lo valuta? Ma certamente è un episodio che va condannato in modo forte e fermo, come è stato fatto da tutte le parti e da più parti internazionali. Un attentato cruento che ha portato morti, per cui certamente la condanna deve essere forte. Quello che probabilmente può essere visto con un riferimento a un piano economico che rispunta allo spettro del terrorismo, che probabilmente c'eravamo illusi o cercavamo di mettere in un angolo, invece è tornato prepotentemente con l'attentato di ieri alla nostra mente, e questo potrebbe portare a una incertezza non solo in ambito proprio di sviluppo di questi grandi scenari geopolitici internazionali con le tensioni del Medio Oriente, dell'Iran, della Siria e dell'Egitto, ma anche nella gestione della recrudescenza della campagna elettorale americana, che potrebbe entrare in un tema che in questo momento era stato davvero tanto lasciato alle spalle, che è quello della gestione dell'emergenza terrorismo, proprio perché negli ultimi anni ci eravamo un po' illusi che questa emergenza fosse passata, sperando che l'episodio possa essere considerato un episodio, quindi non una serie o un primo di un una lunga catena di tensione. Quindi l'episodio da condannare, per il momento nessun impatto sui mercati finanziari, anche se purtroppo in questi casi guardare l'impatto sui mercati finanziari è sempre una derivata seconda e occorre concentrarsi tanto invece sulla derivata prima, che è la più grave. Io penso che potrebbe rivolgersi contro i mercati finanziari solo in tema di maggiore incertezza che può arrivare sui mercati. Anche se c'è questa, tra le derivate di cui parla, questa che sintetizzo, Libia uguale petrolio, per cui vedremo se poi questa derivata potrà essere anche trascurata o meno. Eccoci ritrovati a Salva Danaio, anche oggi siamo in diretta dalla Fiera del Levante di Bari e stiamo commentando gli ultimi eventi finanziari, economici, a partire dalla decisione di ieri attesa, per fortuna arrivata quella positiva della Corte Costituzionale tedesca, che ha dato il via libera al Fondo Salva Stati, quindi alla partecipazione tedesca, anche se limitata ai 190 miliardi di euro. Se si vuole andare oltre, ha detto la Corte Costituzionale, il Parlamento tedesco deve dare il suo ok. Peraltro, tra l'altro, con noi questa mattina due ospiti, torno a coinvolgerne uno, Marco Valli, capo economista dell'area euro di Unicredit, molti hanno focalizzato la loro attenzione su questo aspetto che la Corte Costituzionale appunto tedesca ha precisato: se si vuole incrementare questo apporto della Germania al Fondo Salva Stati, il Parlamento tedesco deve dare il suo via libera. Ma mi pare che questo sia un aspetto che coinvolge tutti i paesi europei, anche l'Italia, se deve eventualmente decidere, dovesse eventualmente farlo, di modificare la quota di partecipazione al fondo, deve coinvolgere appunto la politica e quindi il Parlamento. Per cui perché tanta importanza data a questo aspetto? Come dicevo prima, non si tratta, dal mio punto di vista, di un punto cruciale, una richiesta assolutamente ragionevole. Immagino che la differenza sia magari su che grado di coinvolgimento deve esserci del Parlamento, ecco, nel senso quanto può eventualmente essere approfondita una discussione o quanto magari il governo arriva con una proposta e il Parlamento semplicemente si limita ad approvarla senza discutere. Ecco, immagino che si entri in questo genere di dettagli che però, dal mio punto di vista, non aggiungono molto a quello che è il quadro complessivo. E come le dicevo, in questo contesto, con la BCE che ha mostrato il suo impegno a usare risorse potenzialmente limitate, il rischio che si debba da qui a qualche mese vedere una discussione dei Parlamenti europei per un allargamento del Fondo Salva Stati, questo rischio è decisamente diminuito. Questo, dal mio punto di vista, è la cosa più importante anche per un investitore. Spostiamoci per un po' invece dall'altra parte dell'oceano e torno a ricoinvolgere Andrea Ragaini, amministratore delegato di Banca Cesare Ponti. Poi darò lettura anche di qualche messaggio da parte degli ascoltatori appunto che ci stanno scrivendo al 349-238-6666 e magari sentiremo anche qualcuno che ci sta chiamando all'800-24-0024. L'altro tema che ieri, anche se oggi un po' le borse frenano, ha dato fiato ai mercati, riguarda la Federal Reserve, la banca centrale americana. Molti economisti, direi la gran parte, ritiene che la banca centrale statunitense lancerà presto, forse lo annuncerà questa sera, un nuovo quantitative easing. In gergo finanziario si tratta di un programma di acquisto di bond, di titoli di Stato e di una contestuale iniezione di liquidità, perché serve all'economia statunitense che è alle prese con una disoccupazione ancora piuttosto preoccupante, una bella grana che tra l'altro tutti i candidati si stanno portando in campagna elettorale, sia il fronte democratico che appunto quello repubblicano. Allora Ragaini, questo programma secondo lei, visto che per la verità era stato più volte ipotizzato che venisse lanciato nelle scorse riunioni della Federal Reserve, invece ancora il velo non è stato sollevato su questa intenzione o meno, deve uscire più esplicitamente allo scoperto stasera la Banca Centrale Americana, al mercato serve anche questo per avere una spinta più consistente? Cosa succederà nelle prossime ore oltreoceano? Ma già nel simposio di Jackson Hole all'inizio di settembre il presidente della Fed americana aveva dichiarato che la crescita economica americana era totalmente insoddisfacente e aveva ribadito quello che dicevi tu, che aveva detto già tante volte nel passato, cioè che la Fed era pronta a fare di tutto per sostenere l'economia, e tra quel di tutto certamente il mercato si attende il lancio di una operazione quantitativa in varie forme o in differenti forme proprio nella riunione di oggi del Federal Open Market Committee. È un qualcosa che i mercati attendono, siamo un po' malati di effetti quantitativi sul mercato e questo dimostra quanto è fragile oggi il sistema finanziario. Servono delle misure straordinarie, serve un po' di benzina ai mercati, e questo viene visto nella liquidità che arriva sui mercati tramite le operazioni quantitative, se non sterilizzate come quelle che vuol fare la Federal Reserve. Quindi probabilmente i mercati se l'aspettano, il fatto che stiano andando di fatto in modo trasversale, quasi fermo da qualche giorno, quelli americani evidenziano proprio il fatto che i dati macroeconomici non sono positivi. Ci sono le elezioni presidenziali alle porte, non dimentichiamoci che nessun presidente è stato rieletto con una disoccupazione al di sopra del 9% e la disoccupazione americana naviga in quell'intorno ormai da tanti mesi, quindi certamente ci può essere un impegno molto forte anche della Fed. Potrebbe essere che oggi il Federal Open Market vari una politica di quantitative easing dopo quella varata 2 anni fa di 600 miliardi di dollari. Ragaini, tanto così per fare dei paragoni e far capire anche ai nostri ascoltatori come funziona negli Stati Uniti rispetto all'Unione Europea, noi stiamo parlando di due iniziative praticamente, come dire, nell'immagine abbastanza simili. La Banca Centrale Europea con lo scudo anti-spread si è impegnata ad acquistare titoli di Stato dei paesi periferici in difficoltà, anche se ha detto che le scadenze che comprerà sono limitate appunto fino ai 3 anni. La Banca Centrale Americana con questo quantitative easing lo stesso lancia Francia ha programmi di una tipologia simile, comunque acquista titoli di Stato. Dove sono le differenze fra le due iniziative? La differenza è sostanziale. Il governatore Draghi ha detto in modo molto chiaro che l'operazione varata giovedì scorso ha una motivazione fondamentale, cioè che la politica monetaria che stiamo vivendo in questi mesi non funziona, perché la cinghia di trasmissione della politica monetaria dalla Banca Centrale Europea alle singole banche sui territori, sui 17 Stati europei, non funziona. Ovvero, se la Banca Centrale abbassa i tassi, non è automatico che le banche abbassino i tassi nei confronti dei loro clienti, imprese o famiglie. Questo perché i tassi nazionali, quelli italiani in particolare, non dipendono dal tasso della BCE, ma dipendono dallo spread che i titoli italiani pagano sui mercati internazionali. Draghi quindi ha detto, visto che il mio obiettivo è quello di mantenere il processo di collegamento monetario adeguato e la politica monetaria non si trasmette, devo intervenire con questo programma. La Fed dice un'altra cosa, visto che l'economia rallenta e visto che la crescita economica non è soddisfacente e visto che la disoccupazione è ancora alta, io intervengo con un programma di stimolo monetario. Quindi è la premessa che è completamente differente. In Europa abbiamo un obiettivo unico che ha la Banca Centrale Europea, che è quello di salvaguardare la stabilità dei prezzi, e Draghi in questo momento sta facendo questo tramite un programma di acquisto titoli, che però viene fatto perché i meccanismi di politica monetaria non funzionano. La Fed ha un altro obiettivo, che è la stabilità dei prezzi da un lato e la crescita economica dall'altro. Quindi ancorché i meccanismi sembrino uguali, le premesse sono tanto differenti. E proprio per questo Draghi. Però, no, quello che io volevo capire, però l'obiettivo diverso, la procedura è la stessa, nel senso che la Banca Centrale Americana lo stesso compra titoli di Stato da chi? Allora, il primo quantitative easing era limitato ai titoli di Stato a breve termine, il secondo QE americano è stato indifferenziatamente rivolto ai titoli a breve e ai titoli a medio termine, questa terza operazione di QE potrebbe essere rivolta o come l'altra a comprare titoli a lungo termine, a vendere i titoli a breve, oppure qualche altra formula che verrà utilizzata. Certamente il meccanismo è, si comprano titoli sul mercato, quindi dagli operatori, e si stampano banconote per finanziare gli acquisti. Benissimo, ritorniamo in Europa con Alfio Da Lucca, che è il primo ascoltatore che ci chiama all'800240024. Alfio, buongiorno, voleva ancora qualche chiarimento relativamente al funzionamento del Fondo Salva Stati. Alfio, buongiorno. Sì, buongiorno. Sì, volevo un chiarimento in relazione al funzionamento del Fondo Salva Stati e dell'intervento della BCE, perché se ho capito bene mi parrebbe che così l'Europa abbia risolto il problema che si è posto, vediamo. Uno Stato che ha bisogno chiede l'intervento del Fondo Salva Stati. A quel punto, però, in base a quanto ha detto Draghi, parte la BCE, parlando con i singoli paesi, rispettando i patti e così via. Quindi il Fondo Salva Stati, anche se ha una limitazione a 500 miliardi di euro, in ogni caso è sufficiente, perché poi la palla passa alla BCE. Quindi mi sembrerebbe che il problema, se ho capito bene, il problema di stabilità europea sia risolto. Certo, rimangono le follie dei singoli popoli, anche il nostro compreso, cioè di stabilità politica e tutto il resto. Certo, però per il resto mi sembrerebbe risolto. Però volevo sapere un breve chiarimento su questo. Si ha capito bene il processo. Pure, se è così. Grazie, okay. Alfio. Marco Valli, Alfio ha sintetizzato un po' quella che potrebbe essere appunto la procedura di intervento nel caso un paese avesse bisogno del Fondo Salva Stati e contestualmente successivamente la BCE. Ha capito bene come funziona questa cinghia di trasmissione? Sì, sostanzialmente funziona così. L'ascoltatore aveva ragione, adesso lo riepilogo brevemente. Se un paese vede che i suoi rendimenti sono a livelli eccessivi, non riflettono i fondamentali o per qualsiasi altro motivo, ha la facoltà di chiedere ufficialmente aiuto sul mercato al Fondo Salva Stati. A quel punto, una volta che viene richiesto aiuto sul mercato, stiamo parlando di aiuto sempre in termini di piani di acquisto di titoli di Stato, una volta che viene fatta questa richiesta formale di aiuto, c'è la necessità di firmare un memorandum con cui questo paese si vincola ad attuare determinate politiche, questo secondo il principio per cui non ci sono aiuti senza condizionalità, e una volta che questa procedura è operativa, a quel punto subentra anche la Banca Centrale Europea. Quindi sostanzialmente una volta che un paese fa richiesta di aiuto, la richiesta arriva formalmente al Fondo Salva Stati, poi si inserisce la BCE, la quale, valutando le condizioni di mercato, decide a sua volta se intervenire oltre al Fondo Salva Stati. Questo cosa vuol dire? Che molto probabilmente quando un paese farà richiesta di aiuti, quindi vincolandosi alle condizionalità, avrà il supporto sia del Fondo Salva Stati che della BCE. Molto probabilmente, visto che la BCE è l'unica istituzione che ha risorse potenzialmente illimitate, i fondi che verranno utilizzati saranno in prevalenza della BCE e in misura minore del Fondo Salva Stati. Quindi sostanzialmente per questo che dicevo che un potenziale allargamento della potenza di fuoco del Fondo Salva Stati nei prossimi mesi non dovrebbe diventare più un rischio o un problema, proprio perché c'è la potenza di fuoco della BCE illimitata che vi si affianca. E come diceva giustamente l'ascoltatore, a questo punto buona parte dei rischi sono stati eliminati, quello che rimane è un rischio comunque sostanziale che deve rimanere prezzato nel mercato, è il rischio che un determinato paese e potenzialmente un paese sistemico come Spagna e Italia o a un certo punto firmino l'accordo sulle condizionalità e poi vengano meno queste promesse o addirittura non riescano a trovare un accordo per firmare questo memorandum che l'obbliga di vincolare alle politiche di riforme. Quindi in ultima analisi quello che rimane, che deve rimanere prezzato nel mercato, è un rischio sostanzialmente di natura politica, mentre tutti gli altri rischi, incluso il rischio di rottura della zona euro, in qualche modo devono essere ridotti in maniera significativa. Ecco il motivo per cui dovremo andare verso le elezioni del prossimo anno con grande senso di responsabilità. Esatto. Allora, tra chi è molto interessato agli scenari finanziari, alle dinamiche politiche, tutti gli eventi che ci stanno appassionando da molti anni, a cominciare dal signor spread, con il quale ormai conversiamo amabilmente tutti i giorni, c'è anche chi naturalmente invece chiede di essere un po' più operativo e chiede suggerimenti un po' più concreti su determinati asset sui quali investire. Claudio da Pavia, buongiorno. Buongiorno a lei, grazie di avermi chiamato. Grazie. Volevo sentire un po' cosa ne pensano i suoi ospiti sull'investire in questo periodo su titoli del lusso e su ETF dei paesi emergenti. Quindi aree emergenti e settore luxury. Claudio, la ringrazio. Tra l'altro nei giorni scorsi proprio il settore del lusso è stato in forte movimento perché c'è stato questo profit warning, questo allarme utili lanciato dal colosso britannico Barbaris che ha mandato a ribasso tutti gli altri titoli del settore nelle altre piazze europee. Però tutto sommato è un comparto, visto che chi è ricco è sempre più ricco, per la verità è andato anche sempre abbastanza bene, è rimasto coinvolto solo relativamente dalla crisi dei consumi che riguarda il nostro paese come tante altre aree del mondo. Andrea Ragaini, cominciando magari da un suo commento su questo, poi andiamo anche alle aree emergenti che per la verità richiederebbero una puntata a sé stante, però magari un piccolo flash riusciamo a farlo ugualmente. Sì, le piace? Sono molto connessi tra di loro i due punti. Esatto, tema... infatti stavo pensando alle aree, agli arabi, agli sceicchi, ai petrodollari. Ma infatti è un pochettino tutto molto connesso perché il tema di fondo è il rischio di hard landing dell'economia cinese e in generale delle economie emergenti che hanno quindi questo atterraggio drastico dell'economia cinese. Un atterraggio duro, un atterraggio forte delle economie che dopo tanti anni di crescita che hanno trainato anche a livello importante il mercato del lusso che aveva visto proprio nelle economie emergenti asiatiche il mercato di sbocco naturale, oggi si ritrovano ad avere un PIL in discesa, una produzione industriale in discesa. Forse perché, soprattutto questo è il caso della Cina, non sono riusciti a riconvertire un'economia basata sullo sviluppo delle infrastrutture in un'economia basata sullo sviluppo dei consumi interni. E questo inevitabilmente non può che avere una ricaduta negativa sui titoli che del lusso fanno il loro obiettivo, proprio perché questi mercati sono dei mercati potenzialmente importantissimi. Come dicevi tu, la ricchezza è polarizzata in questa parte del mondo, ma il fatto che questa parte del mondo stia rallentando, e forse non solo a livello contingente, ci aspettiamo e ci auguriamo tutti di sì, ma non è scritto nelle carte ancora, inevitabilmente ha creato un profit warning di Barbaris a cui facevi cenno tu, che ha provocato il peggior calo di sempre della società, -20%, meno 20, ma poi sì. Tutte le altre, -8, -12, insomma. Quindi io starei attento a investire nel mercato del lusso, è sempre un mercato importante, posso dire solamente a Claudio, se lo si fa, lo si faccia con grande diversificazione di portafoglio. Altre aree emergenti che in questo momento sono, come dire, in una posizione totalmente disincantata rispetto alle vicende europee, rispetto alla campagna elettorale americana, c'è qualche area del pianeta che sta marciando in una condizione di crescita interessante, trascurando gli eventi delle altre parti del mondo, Ragaini? Allora, tutte le aree emergenti ormai sono abbastanza interconnesse tra di loro. La nota globalizzazione a cui noi ci rivolgiamo tante volte sta portando questo effetto, che anche in alcune aree asiatiche si guarda con grande attenzione alle tensioni che ci possono essere in Europa. Quindi tante economie emergenti, soprattutto le economie di frontiera di Indonesia, Corea del Sud, stanno ancora andando molto bene, hanno dei tassi di crescita ancora molto importanti e hanno una struttura di debito pubblico molto solida, perché non dimentichiamoci che i paesi emergenti hanno un rapporto debito-PIL circa pari al 40% contro oltre il 100% delle economie industrializzate. Però certamente ormai questa concatenazione di eventi nel mondo non lascia liberi nessuno. Allora, volevo ritornare un attimo in Europa, perché c'è una riflessione molto interessante di un ascoltatore al 349-238-6666. Per la verità era una domanda che mi era venuta in mente di fare a Marco Valli anche prima, quando abbiamo soffermato la nostra attenzione sul tema della Germania. Parlavamo prima dello spread italiano rispetto appunto all'area tedesca, che non riflette i fondamentali della nostra economia, potrebbe scendere ancora, forse non sui 200 punti base come auspicherebbe la Banca d'Italia, ma magari un livello leggermente al di sopra di questa soglia, ma al di sotto anche di quella in cui ci troviamo in questo momento, ancora piuttosto alta. Anche lo spread considerato dal punto di vista della Germania, Valli, dice questo ascoltatore, non riflette la sua economia. Allora, in questo caso, l'intervento del Fondo Salva Stati potrebbe intervenire a parte per frenare la corsa del differenziale di rendimento dei paesi periferici, ma anche per riequilibrare i flussi sui bond e quindi esercitando anche una pressione verso l'alto per quello che riguarda il versante tedesco, che tra l'altro sta pagando questa condizione, perché in questo momento le sue aste, le aste del tesoro tedesco, cominciano ad essere guardate con un po' più di freddezza. Questi tassi così bassi cominciano ormai anche a scontentare il mercato, per chi acquista i titoli di Stato tedeschi per investire nei fondi pensione ormai chiaramente deve cominciare ad allontanarsi da questa tipologia di investimento. Valli? Diciamo che è un po' complicato, nel senso che in questo momento il Fondo Salva Stati in Europa, IFSF, IESM, non è ancora stato utilizzato per programmi di supporto sul mercato, per programmi di intervento sul mercato dei titoli di Stato. Per adesso gli aiuti sono stati tutti forniti in forma di prestiti o eventualmente di supporto al settore bancario. Quindi è anche difficile tecnicamente pensare a uno scenario in cui, ammesso che sia possibile, il Fondo Salva Stati in qualche modo cerca di riequilibrare lo spread Italia e Germania portando al rialzo i tassi tedeschi. Teniamo presente che questo fondo è stato creato con la finalità di supportare ovviamente i paesi in difficoltà, quindi non è sicuramente compito del Fondo Salva Stati quello di in qualche modo, non so, immagino, vendere titoli tedeschi, ma come si fa, visto che in questo momento, ripeto, il Fondo Salva Stati non è impegnato in programmi di acquisto sul mercato. Direi che la proposta è abbastanza improponibile. Quello che serve per riequilibrare un pochino lo spread è invece esattamente quello che ha detto la Banca Centrale Europea, cioè cercare di far capire agli investitori, persuadere gli investitori del fatto che il rischio di rottura della zona euro in questo momento è basso, molto basso, è praticamente zero secondo quanto ci riferisce Draghi. Se questo viene visto come un annuncio credibile, allora il mercato si riequilibra da solo, perché non dimentichiamo che tutta la parte di cosiddetto flight to quality, quindi fuga verso gli asset meno rischiosi, che ha coinvolto soprattutto i titoli di Stato tedeschi, questa è la responsabile del fatto che i rendimenti in Germania in alcuni tratti sono stati addirittura negativi, adesso non più dopo l'annuncio di Draghi. Quindi è questa percezione di rottura sì, rottura no dell'eurozona che guida i rendimenti tedeschi, perché ovviamente i rendimenti in Germania sono visti come bene rifugio, come tale un minor rischio di rottura della zona euro necessariamente si manifesta in tassi di interesse più alto in Germania, come stiamo vedendo del resto in questi giorni. Trasmissione si sta avviando verso la chiusura, chiedo gli ultimi 30 secondi di disponibilità ad Andrea Ragaini con solamente un flash dedicato ai nostri risparmiatori che magari in questi giorni sono un po' più tranquilli perché vedono meno volatilità sul mercato, ma naturalmente guardano con apprensione al proprio piccolo portafoglio risparmiato. Cosa devono fare per conservarlo nella miglior maniera possibile? La regola aurea è sempre la stessa, è un po' ormai quasi banale, però è diversificare molto i propri investimenti, così come prima non era il caso di vendere tutti i titoli di Stato e comprare tutti i dollari, ora non è il caso di fare l'operazione inversa, cioè vendere dollari e comprare tutti i titoli di Stato. Un po' di diversificazione valutaria sta sempre bene nei portafogli, un po' di diversificazione azionaria, soprattutto oggi che i multipli fanno vedere livelli molto più bassi rispetto alle medie storiche, può essere interessante, però tutto in funzione del proprio profilo di rischio con, ripeto, tanta diversificazione. Benissimo, grazie ad Andrea Ragaini di Banca Cesare Ponti, Marco Valli di Unicredit. Io ringrazio Davide Ciocia e Michelino Previato che mi hanno accompagnato.